vai chiamare, le chiamare. Ciao Mari. Ehi, tutto a posto, sì. Ehi, quello che è a posto, quello è che da manina. Oh, tranquillo, vai. La vita si va avanti, si continua. Dove a me mi sono appannato e è troppo coccato nel letto, già che si è caduto di china e poi a stare troppo nella letta con la pizza. Oh, Bobo, aspetta, ma non hai lavorato oggi? Ieri ho lavorato, oggi sono di riposo e la mattina dopo secondo mezzo che mezzo. Ah, vabbè, io ho provato a accendere, però non l'ho mai riuscito, e stavo ascoltando così. Io ho acceso anche ieri, non c'è mai nessuno, accendo. Forse due battuti e la poi chiudo, anche non viene nessuno, ora la cazzo, vai a prendere un guadagno. E poi sono dimenticato di tutto, di rubare a chilo. Poca dice, poca niente, boh. Qualcuno irudete, ma qualcuno però. Ormai l'era del baracchino è finita, prima c'era bello, cazzo che ne hanno belli niente, dall'1 al 40 era sempre pieno, ricordo negli anni 90, diciamo pure nei canali sotto, i canali sopra, però pure niente, questi canali pure, pensa tu. Ehi, è tutto pagato, là. E per cui quando non lo possiamo usare, se non la batte, e cosa vuoi fare? Che? Oggi mi ricordo che c'è un cassoletto. Cara, già è bello, è tutto malato così. Cazzo no, non mi riuscito di arrivare qui, ma adesso. No, io stesso, se questo qua, parca massa. Cosa devi fare? A comprare la baracchina, non sarà no. Sì, che qualcuno è buono, quando non vedi nessuno, c'è anche uno, è buono e siamo a posto. Oh, yeah, per carità. E vabbè, dai, hanno suonato, Manuele, ci sentiamo magari più tardi se sono libero. Che bene, tu caghi su da vedere, non si andrà prima del lutto, Ehi, vabbè, a me non ci accompagna, dai, già ci sentiamo, mi ha fatto piacere sentirti Giovanni, dai, caso già ci sentiamo più tardi, ok. Ok, ciao, mamma, ciao, buon proseguimento. Dai, ciao. Ecco, l'onore è un altro fatto su cui lui punta, sono i mafiosi, è la mentalità della mafia. Per la prima volta entriamo dentro quella mentalità mafiosa che ti fa capire che cos'è veramente e quanto pensa soltanto a se stesso questo mafioso. E questo serve a questi mafiosi, a questi criminali che non sono dei benefattori, non sono i Robin Hood, sono invece delle persone che... ma anche della madre della figlia, di altre donne, perché poi è un l'idea di donna che viene fuori. Ecco, e lui tratta malissimo le donne, le tratta per un... Ma Attenzione canale 10, lo so da sotto, attenzione 10, attenzione canale 10, attenzione Antonio Bobbonio, mi spieghi? Attenzione Bobbonio, mi senti? Gli anni che sani papà gli è stato con l'uno per attenzione Bobbonio, se ne senti? Attenzione, dice, c'è qualcuno? Hola. Hola. Attenzione, canale 10. C'è qualcuno sul 10, cambio. Attenzione canale 10, sono qua sul 10, l'ascolto. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10. Attenzione canale, sono qua sul 10, l'ascolto. Attenzione canale 10. Ora, ora, ora, il tuo amico è per il satellite 19 saludando. Ora Centroamérica. Ora Centroamérica si copia, Centroamérica si copia, en Puerto Rico saludando. Rey, Rey Centroamérica. Atento Italia, se copia San Juan, Puerto Rico. Atento Italia, se copia Puerto Rico. Atención, canale 10.